ne patro sono arresi. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. L'unità è la loro forza, è la strada il loro credo. Contro i fasci la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. Dai sopporti fiorentini, sì, ne fa non sono arresi. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. Un salutone a tutti e tutti, e siete all'ascolto di Radio Wombat e quindi della nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla appunto di quello che accade nel quadrante nord-ovest di Firenze, raccontato da chi ci vive e ci lavora. Ricordiamo il Passaggio al Nord-Ovest, la potete ascoltare in streaming in diretta il lunedì alle 14 e in replica martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alternata, o alle 13 o alle 14, nel senso che martedì e il giovedì alle 13 e mercoledì e venerdì alle 14. Ricordiamo anche che potete ascoltare, riascoltare le trasmissioni precedenti, quindi anche questa trasmissione, così come tutte le trasmissioni di tutte le rubriche, le trasmissioni di Radio Wombat, riascoltando appunto in podcast, andando alla sezione podcast, da cui potete riascoltarle appunto o scaricarle e riascoltarle successivamente. E parliamo nella trasmissione, nella quinta e la sesta e nella nona trasmissione abbiamo fatto un punto di quella era la situazione rispetto alla mobilitazione contro la prevista costruzione dell'inceneritore a Case Passerini e dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Sono trascorsi alcuni mesi, sono state alcune iniziative volte a contrastare, a non far costruire, a non far andare avanti, diciamo, l'iter burocratico, amministrativo, ma anche politico, che vuole a tutti i costi costruire queste grandi opere, quelle inutili, dannose, nocive, e appunto è il momento di fare un bilancio o comunque fare un punto di quella che è la situazione attualmente rispetto appunto alla costruzione, alla prevista costruzione dell'inceneritore e all'ampliamento della porta di Peretola. Siamo qui con un militante, un cittadino interessato, un cittadino critico, un cittadino che comunque partecipa alle iniziative, le partecipa in prima persona, in particolar modo sulla costruzione delle iniziative e sul portare avanti il presidio, noi inceneritori, noi aeroporti. Le chiediamo prima di tutto, da parte di chi vuole queste grandi opere, chi vuole l'inceneritore all'aeroporto, quali passi sono stati fatti negli ultimi tempi? Allora, ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda sia l'inceneritore appunto di Case Passerini o di Firenze, insomma, come dir si voglia, ma da anni abbiamo capito di che si parla, sia per quanto riguarda più che l'ampliamento, la costruzione del nuovo aeroporto di Peretola, la situazione è un po' una danza immobile, per fare una citazione colta, nel senso che coloro che le vogliono costruire, i decisori pubblici e chiaramente le aziende che li spingono, non perdono occasione per manifestare la loro volontà, e quindi diciamo, in linea con la parola d'ordine che in qualche modo è stata sintetizzata anche da Matteo Renzi nell'ultimo best seller di sua scrittura, è avanti. Quindi in linea con questa retorica del fare che sta accompagnando non solo il governo Renzi, ma comunque tutte le ultime amministrazioni, governi che si sono succeduti, si stanno muovendo appunto in coerenza con questo tipo di retorica. E chiaramente va anche detto che se fosse stato per loro, perlomeno per Matteino, a quest'ora l'aeroporto di Peretola sarebbe già un nuovo aeroporto intercontinentale, ci avrebbe già fatto atterrare i capi di Stato per realizzare il G7, perché queste erano le sue e le loro promesse. In realtà tutto questo non è successo per tutta una serie di ragioni, di vicissitudini che hanno a che fare, da un lato, con le contraddizioni sicuramente di queste opere, anche delle contraddizioni che ci sono tra l'una l'opera, tra l'un'opera e l'altra, hanno dall'altra parte sicuramente a che fare con il livello di mobilitazioni che il movimento che in questi anni, diciamo dal una sorta di movimento 2.0 che ha ripreso le mobilitazioni nella piana dal 2013 fino ad oggi, è riuscito a mettere in campo. Entrambe le due opere sono ad oggi, diciamo, stoppate temporaneamente, incagliate in problematiche di tipo tecnico, amministrativo e burocratico. Per quanto riguarda l'inceneritore, abbiamo ancora gli effetti per noi positivi della sospensiva seguita alla sentenza del TAR, a cui come comitati, come cittadini, abitanti e movimenti siamo ricorsi, che il 10 novembre del 2016 ha appunto bloccato l'iter autorizzativo, che era seguito alla conferenza dei servizi che invece aveva appunto deliberato la compatibilità dell'opera. Quindi per adesso l'inceneritore è, diciamo, stoppato. Nel frattempo mi sembra anche che ci sia stato non tanto un avvicendamento quanto una riorganizzazione da parte di quella viene chiamata la governance, comunque, diciamo, dei capi della cupola, diciamo, di quella che era Quadrifoglio è diventata Alia. Sì, sì, sì. Cos'è successo? Ecco. C'è stato questo passaggio non da poco, nel senso che il gestore dei servizi, appunto, da Quadrifoglio è diventato Alia, allargando lo spettro dei comuni e dell'area interessata, che è più grande di quello di prima. Diciamo che da parte di comitati e movimenti l'abbiamo visto come un tentativo forse anche neanche troppo celato, anche di neutralizzare quella che era stata una spinta dei no e che si era trasformata anche nel cambio di almeno un'amministrazione sicuramente chiave nel gioco di scacchi che si sta giocando sulla piana, che è quella sestese. Nel senso che le ultime elezioni sestesi, come credo gli ascoltatori non potrà essere sfuggito alle loro argute osservazioni, il Partito Democratico ha subito una sonora sconfitta, quindi la giunta della Biagiotti, ex PD, ha lasciato il posto alla giunta di Lorenzo Falchi, che sicuramente ha costruito il suo successo e la sua elezione proprio sulla vicenda delle due grandi opere, sia dell'aeroporto che dell'inceneritore. Quindi in qualche modo abbiamo inteso questo cambio di gestore e l'allargamento dell'area interessata anche come un tentativo di neutralizzare o comunque di limitare la possibilità che il cambio di un'amministrazione, a cui potrebbe seguire il cambio di altre amministrazioni sulla stessa scia, e noi certamente in qualche modo ce lo auguriamo anche, avrebbe potuto determinare. Quindi insomma c'è stato anche questo passaggio, questa riorganizzazione. Quindi comunque dal punto di vista della volontà di costruire l'inceneritore è cambiato poco? Ma sembrerebbe da questo punto di vista proprio di sì. Diciamo che da un punto di vista del dibattito pubblico abbiamo avuto, se si facesse un esercizio così di sociologia quantitativa, noteremo un calo della comunicazione pubblica su questo argomento. C'è stato indubbiamente un picco che possiamo collocare intorno all'estate del 2016, non casualmente, intorno a questo periodo, quello appunto che ho detto dell'estate del 2016, il dibattito pubblico è stato fortemente catalizzato intorno alla questione della piana, del riassetto complessivo della piana, di quello che appunto in qualche modo è anche sintetizzato nel titolo della trasmissione, di questo passaggio a nord-ovest di un sacco di infrastrutture, e ci sono stati molti interventi. C'è, cioè, chi lo ricorderà, il faccione del presidente di Quadrifoglio, no? Che Giannotti, Livio Giannotti, che ha campeggiato sulla Nazione più di una volta con le dichiarazioni sempre, come dicevo all'inizio, coerenti con la filosofia del avanti, noi andiamo avanti, la politica è già deciso, il ciclo dei rifiuti va chiuso, e quindi la volontà era fortemente riconfermata. Dopo quel picco appunto comunicativo, che come ripeto non era casuale perché coincideva da una parte con la oceanica manifestazione dei 20, diciamo che li abbiamo contati nei 20.000, diciamo, mettiamola, passiamola alla storia così, la manifestazione dei 20.000 del 14 maggio del 2016. C'erano state poi le prime camminate sui terreni che già avevamo cominciato in qualche modo a preparare come Assemblea per la Piana prima ancora che nascesse il presidio. Poi dalle prime camminate sui terreni, l'insediamento del presidio, le prime iniziative, e proprio in quell'estate c'era stato anche delle trivellazioni, sempre a carattere, come si dice, conoscitivo, esplorativo dei terreni, le quali avevano preoccupato non poco gli abitanti e i movimenti, e ci sono stati anche due blocchi effettuati sulle trivellazioni. Quindi in corrispondenza da una parte della, diciamo, della volontà di costruire l'opera, dall'altra in corrispondenza di un picco di mobilitazione da parte degli abitanti, c'era questo picco comunicativo. Ora il dibattito pubblico gira indubbiamente molto meno intorno alla questione dell'inceneritore, se ne parla poco e addirittura, così per fare un po' folklore, però insomma sono cose serie, in un incontro informale avvenuto proprio per nessuna pianificazione, quindi un incontro per strada tra Giannotti e un attivista insomma dall'età insospettabile e anche dalla coerenza di ferro, Giannotti avrebbe anche dichiarato che si è un po' rotto i coglioni di questa vicissitudine. Probabilmente una rottura di coglioni che noi non, chiaramente non gli diamo più peso di quanto non ne abbia, perché nero su bianco non c'è niente, e ribadiamo che da parte loro continuano a dire che l'inceneritore lo faranno. Le ultime dichiarazioni di Nardella in questo senso vanno in questa direzione, però indubbiamente ne stanno parlando molto meno, mentre stanno parlando più di altre cose. E nello stesso momento pare invece però che il sindaco di Campi, Bisenzio Fossi, si sia non allineato alle posizioni del sindaco di Sesto, ma che comunque, forse complice anche la scadenza elettorale vicina, comunque si è dichiarato no, ha dichiarato un no all'inceneritore. Cosa ci dice al proposito? Sì, questa è sicuramente un'altra vicenda che è indubbio che parte dello scoglionamento di Giannotti verrà anche da questo, nel senso che mentre sulla questione della giunta Falchi c'è stata una sua coerenza fin dall'inizio, quello che sta succedendo a Campi è indubbiamente interessante e va letto sotto una duplice lente. Quindi quello che è successo è questo: il sindaco di Campi, sicuramente non casualmente, ma avvicinandosi la scadenza elettorale per le elezioni comunali campigiane, come ha già detto te, cambiato non radicalmente la sua posizione, però in modo significativo. Cioè il sindaco di Campi, che non ha nelle sue recenti uscite e prese di posizione messo in discussione l'incenerimento come pratica rispetto al trattamento dei rifiuti, però ha fortemente messo in discussione l'inceneritore di Case Passerini, cioè non gli inceneritori in quanto tali, ma questo inceneritore sì. La sua posizione si è sinteticamente espressa con l'espressione la politica ha fallito, indicando con questo il fatto che la tempistica per le autorizzazioni, per l'iter autorizzativo, procedurale, probabilmente anche anche un'incapacità di accordare i suoni tra amministrazioni, livelli istituzionali differenti, il sindaco di Campi ha deciso di schierarsi contro questo inceneritore. Appunto lo ha fatto non solo a parole, in qualche modo c'era stata una prima presa di posizione che era si era concretizzata già l'anno scorso con il ricorso che appunto il Comune di Campi aveva fatto per le mancate compensazioni in vista della costruzione dell'inceneritore, ricorso che era stato fatto mentre l'amministrazione di Campi, ancora in linea con il PD renziano, sosteneva la costruzione dell'opera, quindi c'era già stato questo ricorso. Ad oggi questo ricorso è stato rafforzato dalle dichiarazioni che ho detto, e appunto Campi insieme a Sesto hanno pure preso, diciamo, l'occasione per scrivere alla Regione Toscana, che è sicuramente un altro livello istituzionale fortemente coinvolto, diretto da Rossi, che si è allineato negli ultimi anni ai, ai diktat renziani in maniera pedissequa. E niente, insomma, Falchi e Fossi insieme, benché appunto due giunte diverse, cioè quella di Falchi di sinistra, di coalizione sinistra italiana, mentre Fossi ancora PD, però che si, però si sta spostando, sembra, in area orlandiana, ma qui poi entriamo in capitoli che a noi interessano fino a un certo punto, anzi quasi zero, e inutile farne chiacchiera, però hanno scritto a Rossi. Quindi ecco, il Comune di Campi ha messo in discussione questo inceneritore dicendo: siccome le opere di compensazione e di mitigazione, che poi consisterebbero sostanzialmente sempre nel solito bosco da collocare nella zona del Parco della Piana, non sono ancora state fatte, non si può procedere con l'inceneritore di Case Passerini, quindi non ci sarà. Appunto, ti volevo chiedere, chiaramente essendoci, diciamo, una diminuzione dell'attenzione o comunque degli interventi da parte di quelli che sono, di quelli che vogliono costruire gli inceneritori, anzi gli interventi che si sentono fare da parte istituzionale sono quelli di quelli che non lo vogliono oramai più, sembra che sotto certi aspetti anche la voce o comunque le iniziative di quelli lo contrastano si siano un po' affievolite. In realtà non è così, ecco, da quanto ho potuto constatare. C'è un presidio che comunque si è rafforzato, e così anche altre iniziative in punto. Ci puoi dire un po' rispetto al presidio, ecco? Sì, allora, appunto, la, come hai detto giustamente, la lotta non si è certo arrestata, benché appunto come tutti i movimenti di scopo, in qualche modo, o quando si fallisce clamorosamente l'obiettivo o quando si raggiunge lo scopo si rischia la fine dei movimenti, siccome ad oggi appunto non abbiamo vinto, non abbiamo neanche del tutto perso, però indubbiamente una certa spinta, che è quella che all'inizio ho un po' raccontato, cioè quella collocabile intorno alla primavera estate del 2016, si è andata ad affievolire, nel senso che probabilmente nella vita di tutti quelli che hanno partecipato alle tantissime iniziative di questi ultimi 3-4 anni non è più in questo momento al primo posto nella scala delle priorità, proprio perché la spinta della controparte è apparentemente diminuita. Nello stesso tempo appunto si sta continuando a lavorare, diciamo c'è un motore immobile delle lotte, e in qualche modo ha fatto i suoi passi, credo significativi, anche da un punto di vista della maturazione interna, perché ad oggi quello che era un gruppo di lavoro che era nato come patto di lotta e temporaneo, limitato a una manifestazione anch'essa comunque importante e rilevante nella storia di questi anni, che è quella dell'11 aprile del 2015, per chi la ricorda, con arrivo con partenza alla Casina Rossa della zona dello Smannoro e arrivo al Parco di San Donato. Ecco, da quella manifestazione il gruppo delle realtà, delle situazioni organizzate che aveva dato origine a quella manifestazione ha creato una dimensione di confronto non a cadenza, non periodica, però permanente, che abbiamo definito gruppo di lavoro Piana, che ogni tanto si incontra, in qualche modo pianifica delle iniziative e guarda avanti. In questo appunto, come segno direi di una maturazione, di una crescita in qualche modo significativa, c'è anche diciamo l'aver colto e inserito all'interno, tra virgolette, di una programmazione, di una lista di obiettivi, anche la questione dell'alta velocità fiorentina, che insomma è ancora pesante e incombe fortemente. Per quanto riguarda il presidio di cui appunto mi ha chiesto, certo il presidio esiste ancora, il presidio ha una sua vicenda particolare che indubbiamente va collocata in una data precisa, o meglio, quindi per chi appunto non ha seguito completamente la storia, il presidio si è cominciato a insediare appunto nella primavera estate del 2016, dove insomma si sono realizzate diverse iniziative, a partire dalla piantumazione dei primi alberi, che era un segnale simbolico, ma neanche tanto, perché poi gli alberi erano veri, che si sono piantati già dalle prime camminate sui terreni di aprile e maggio. Poi c'è stato il vero e proprio insediamento e i lavori per la costruzione del presidio, che appunto in quel momento credevamo in tutta onestà che sarebbe stato funzionale anzitutto al tentativo di resistenza, di sabotaggio, di blocco dei lavori rispetto a una cantierizzazione che in quel momento sembrava imminente. Poi piano piano è diventato in qualche modo anche, oltre ad essere uno strumento, anche un fine in sé, come simbolo degli abitanti che si organizzano, che non aspettano, ecco, che il parco della Piana tanto desiderato lo realizzino necessariamente e solo le istituzioni, ma cominciano a fare. Quindi c'è stato dai primi alberi, ci sono state giornate di ripulitura, perché teniamo conto che la zona in cui ora è insediato il presidio di fatto era una zona chiusa con malamente dalle istituzioni, sicuramente dal comune di Sesto, perché quello è comune di Sesto. Diciamo che quando siamo entrati nel 2016, la zona dove adesso c'è il presidio era la parte finale di un lungo budello, di una strada che lo definisco come budello, nel senso che poi era cieco, proprio dove arriva il presidio era cieco, e quindi veniva utilizzato da furbetti, furbettini o forse anche disperati che smaltivano senza pagarne lo smaltimento dei rifiuti. Quindi si è trovato un po' di tutto, non cose particolarmente tossiche, però ecco, pezzetti d'amianto, si è trovato lavandini, materiali di risulta edile e roba che addirittura in qualche caso gli era stato anche dato fuoco. Quindi ci sono state delle giornate di ripulitura, si è cominciato questo insediamento. Ad oggi il presidio non è il giardino che vorremmo, perché appunto insomma i mezzi sono quelli che sono, il tempo è quello che è per lavorarci, però indubbiamente è un luogo che è stato restituito a una sua dignità, a una sua vita, e è tutto sommato frequentabile, tenendo conto, ripeto, di dove è collocato, che è sempre la zona dello Smannoro. In qualche modo nell'immaginario collettivo ci vorrà del tempo per rimuovere l'idea della discarica e del luogo deputato solo alle infrastrutture, ai capannoni, all'attraversamento esclusivamente automobilistico o di camion. Siamo all'ingresso dell'autostrada, siamo a ridosso dell'impianto di compostaggio di Case Passerini, siamo appunto in una strada, comunque al lato di una strada molto trafficata, benché dentro il Parco della Piana a tutti gli effetti, e oggi il presidio ne è di fatto una porta di accesso che in qualche modo lo sorveglia, la difende e dà un po' il benvenuto, nonostante le reti, i cancelli che sono state messe da Toscana Aeroporti quando tra i primi abitanti cominciavamo a ripulire quell'area, e ripulivamo anche un casolare che è proprio lì sulla via dello Smannoro, e che poteva in qualche modo anche ospitare eventualmente il presidio. Non è mai stato un presidio, però era un'area che era fortemente utilizzata a discarica e che avevamo ripulito. Toscana Aeroporti immediatamente corse a comprare il casolare da un privato che è stato ben felice di venderlo, tra l'altro sembra venduto a ottimo prezzo, perché evidentemente Toscana Aeroporti problemi di soldi di sicuro non ne ha, quindi comprato a corsa e subito impacchettato e militarizzato per impedire che gli abitanti lo potessero usare come luogo di ritrovo, come luogo di socialità. Questo diciamo un po' la fotografia di quello, di quella che è la lotta, le iniziative per non far realizzare l'inceneritore a Case Passerini. C'è poi la questione aeroporto, quindi una fotografia anche rispetto a quello che è il tentativo, la volontà da parte dei soggetti politici, anche della proprietà, certamente, dell'aeroporto, di allargarlo, ingrandirlo, cambiare direzione, e quelle sono le iniziative di mobilitazione, o comunque la mobilitazione contro quest'altra grande opera. Nel frattempo riprendiamo un po' fiato, diciamo. Ci sentiamo un pezzo musicale, sono gli Who con Baba O'Reilly. Siamo sempre qui, sempre Passaggi al Nord-Ovest, sempre Radio Wombat. Vi ricordiamo il sito da cui potete ascoltare in streaming, sapere le informazioni rispetto ai palinsesti e alle trasmissioni e scaricare podcast. Il sito è wombat.noblogs.org, l'account Twitter è twit.com, chiaramente, /Radio Wombat Fi. La posta elettronica con cui comunicare con la radio è posta Wombat, @siberia.net. Dicevamo prima, oltre all'inceneritore, l'aeroporto di Peretola, questa altra grande opera con cui si vuole non soltanto allungare la pista, ma sostanzialmente cambiare l'aeroporto di Peretola. Ecco, allo stato attuale chi sono e cosa stanno facendo per costruire? Allora, diciamo un po' quello che abbiamo detto prima, che anche per quanto riguarda l'aeroporto, ecco, siamo alla, che è tutto fermo eppure tutto si muove. Ripartiamo un po' da quest'estate. Noi quest'estate fino a giugno eravamo in una situazione in cui Toscana Aeroporti era impossibilitata a muoversi proprio perché arrivate anche delle prescrizioni non da poco da parte del Ministero dell'Ambiente, prescrizioni arrivate sulla presentazione di un progetto discutibile anche nella procedura di presentazione del progetto, però mettiamo, diciamo per semplificare, che Toscana Aeroporti ha presentato il suo progetto e il Ministero dell'Ambiente gli ha tirato le orecchie per circa 140 volte, cioè che è il numero delle prescrizioni. Numero delle prescrizioni che teniamo comunque conto che il proponente indubbiamente è uno che conta, perché 140 prescrizioni sono, diciamo, per fare un esempio stupido, è come se ci facessero 140 correzioni in un tema. Quasi da dire che il tema è insufficiente, e invece il candidato, in questo caso Toscana Aeroporti, dietro cui ricordiamo sempre c'è anche Corporazione America, una multinazionale che ha già realizzato aeroporti in giro per il mondo, di cui il fiore all'occhiello di cui si vantano è quello realizzato alle isole Galapagos, in mano capeggiata da Eduardo Eurnekian. Quindi niente, Toscana Aeroporti come candidato eccellente, nonostante i 142 sottolineature del Ministero, era comunque favorevole, però in qualche modo erano delle stroncature notevoli e la cosa era abbastanza ferma. Chiaramente teniamo conto che quando si parla della riorganizzazione dell'aeroporto di Peretola si sta parlando di un'opera che indubbiamente mette una seria ipoteca su l'unica area verde rimasta nel territorio, nell'area metropolitana fiorentina, che è quella appunto che va, diciamo, da Via dello Smannoro arrivando fino al casello dell'autostrada di Firenze Nord. E quando si parla di aeroporto necessariamente si parla anche di tutto un altro balletto di infrastrutture e opere che in questi anni sono state discusse, sono state oggetto di dibattito pubblico, polemica, querelle, moneta di scambio, e di cui è difficile anche rendere conto perché appunto se ne è dette di tutti i colori. Sto parlando dello stadio Nuova Cittadella Viola, sto parlando della ricollocazione della Mercafir, insomma di tutta una serie di cose che insieme e con l'aeroporto hanno fortemente a che fare, quindi c'era una grossa confusione rispetto a tutta questa serie di infrastrutture. Quindi questa era la situazione a giugno. A un certo punto, con una certa accelerazione che ci ha anche un po' preso in contropiede, cominciate ad arrivare delle lettere da parte di Toscana Aeroporti destinate ai proprietari, proprietari lì della zona del... i proprietari della zona che possiedono terreni all'interno di quest'area che dovrebbe essere poi in futuro espropriata da Toscana Aeroporti per realizzare la pista. Sono arrivate queste lettere e quindi ci siamo allertati sia per appunto per capire cosa stava succedendo, soprattutto poi passaggio ulteriore e ovviamente più difficile, quello di impedire o contrastare l'entrata sui terreni di questi soggetti. Quindi in pratica Toscana Aeroporti ha eseguito dei carotaggi con delle ruspe e con delle trivelle, prima ruspe e poi trivelle, in modo anche abbastanza caotico, nel senso che non avevano un cronoprogramma preciso, nel senso che quando hanno visto che come abitanti e movimenti ci stavamo mobilitando con alcune alzatacce la mattina, ci siamo dati appuntamento al presidio, altre volte in altri terreni, avendo avuto un contatto diretto con i proprietari, credevamo di poterli anticipare in base alle lettere arrivate, invece appunto il cronoprogramma non c'era. E questa, così per fare un inciso, sta diventando una prassi sempre più utilizzata, un modo di muoversi e di agire che tenta di farla in barba agli abitanti, ai movimenti, in barba alla loro stessa legalità, che lo riscontriamo un po' dappertutto. Insomma, sono le stesse storie in Val di Susa quando hanno cominciato con gli espropri e la cantierizzazione, sono le stesse storie che sentiamo proprio in questi mesi in Salento dal NOTAP. Insomma, si muovono nella stessa maniera, cioè non hanno cronoprogramma, dispongono del tempo come vogliono, perché chiaramente alle spalle hanno capitali non diciamo infiniti, ma comunque ovviamente molto, molto forti, godono di coperture politiche e impunità. Insomma, in buona sostanza, in quest'estate ci sono stati dei carotaggi, ci sono stati appunto dei tentativi di blocco, alcuni tentativi, alcuni riusciti, in qualche modo dei problemi glieli abbiamo dati. Questi carotaggi sono finiti, finita l'estate, sì, in effetti appunto giustamente ci facciamo delle faccine mentre se ne parla, perché non avendo un cronoprogramma, non sapendo bene cosa facevano, forse una manovra più politica, sì, diciamo, può, che può darsi. In realtà una manovra tecnica, esatto, la lettura che gli abbiamo dato inizialmente era questa, era il tentativo di forzare la mano e mostrarsi forti, no? Dire noi abbiamo delle limitazioni, delle prescrizioni, però intanto noi cominciamo a prendere dei campioni di terra per vedere come si farà questo aeroporto. E quindi era un po' come dire quando si può discutere, però che si faccia è certo, e noi ci cominciamo a mettere le mani. Niente, quindi a questo, come ho detto, abbiamo un po' risposto. E è successa un'altra cosa, direi, che va detta significativa di quest'estate, e penso anche questa purtroppo non casuale, che è stato il decreto Galletti, che diciamo scritto a giugno e approvato a luglio, un decreto che riformula, riguarda, rivede proprio la materia delle VIA, che è una parola che nei movimenti sulle grandi opere citiamo continuamente, che è un acronimo per dire valutazione di impatto ambientale, VIA e VAS, valutazione di impatto sanitario. Quindi questo decreto Galletti va proprio a rivedere i criteri e sostanzialmente li rivede per avvantaggiare i costruttori, cioè fa tutta una serie di sconti, permette di agire con una maggiore agibilità e con vincoli meno stringenti, prevede un sistema sanzionatorio che fa veramente ridere, nel senso che sono previste delle multe il cui massimo è 100.000 euro, cioè qui si sta parlando di gente che può realizzare dighe, aeroporti, scali portuali, inceneritori o altre situazioni di questo genere, dove il volume di affari e di capitali è sui milioni, nell'ordine di milioni di euro, e queste, cioè, sanzioni da 100.000 euro sono veramente, cioè, lo capisce anche un bambino, ecco. Quindi è un sistema che sembra fatto apposta per permettere l'evasione e l'illegalità. Quindi insomma il decreto è arrivato puntuale, talmente puntuale che credo non è malizia pensare che sia stato fatto proprio su misura per la situazione fiorentina e per l'aeroporto di Firenze, però riguarderà oltre 100 opere medie e grandi in giro per l'Italia, che sono anch'esse incagliate o che comunque hanno delle difficoltà di tipo valutativo, insomma legate alle valutazioni di impatto ambientale o sanitario. Quindi c'è stato appunto quest'estate le trivellazioni, i tentativi di blocco e il decreto Galletti. Quindi niente è fermo, ecco, si stanno muovendo. E comunque non stanno fermi neppure coloro che si stanno battendo contro la realizzazione o comunque contro l'ampliamento di quest'opera. Sì. Il presidio è denominato appositamente, opportunamente, non inceneritore, non aeroporto, ma ecco, all'inizio diciamo c'erano un po' di le soggettività sia singole che collettive che compongono diciamo la galassia che costituisce l'opposizione all'inceneritore. Per quanto riguarda l'aeroporto c'erano un po' di altri soggetti, detto. Da un lato il comitato ampigiano contro l'aeroporto, dall'altro lato una parte diciamo sì della popolazione di Peretola che invece per tutta una serie di motivi non vedeva di cattivo occhio, ecco, l'ampliamento in questo senso dell'aeroporto. Ecco, com'è la situazione da questo punto di vista? No, guarda, allora mi pigli fresco perché stamattina siamo stati appunto a Peretola proprio a volantinare una iniziativa che ci sarà, insomma, che faremo a breve, che stiamo organizzando a breve, lì è nella zona di Quaracchi, che diciamo per chi conosce, insomma tra gli ascoltatori Radio Wombat sono della zona, sono di qui, quindi sanno di che si parla, e nella zona dei sorvoli è proprio la traiettoria dell'arrivo degli aerei, e la zona di Quaracchi è quella, diciamo, è il punto in cui gli abitanti si trovano più vicini agli aerei, quindi è una delle situazioni dove l'impatto del rumore e anche dello scarico dei carburanti è sicuramente più forte e più sentita. Quindi niente. E quando vuoi dare un appuntamento per sì, questa? Sì, l'assemblea che si farà sarà il 16 di novembre al Circolo Libertas, che appunto proprio è in linea con i sorvoli. E siamo andati appunto stamattina a volantinare, chiaramente la cosa merita un piccolo approfondimento, alcuni minuti per spiegarla. Come giustamente ci ha detto, non era scontato che il presidio, quando è nato, potesse essere no inceneritori e no aeroporto, proprio perché una componente indubbiamente la più significativa anche in termini numerici e anche più storicizzata, che è quella anti-inceneritorista, legata poi all'opzione dei rifiuti zero, che proprio in Toscana e nell'esperienza della Piana si è nel tempo andata a nascere, a consolidare, che è quella di insomma, guidata, tra virgolette, guidata da Rossano Ercolini, insomma è nata proprio qui. Quindi c'è un'esperienza, quella del movimento contro gli inceneritori, che ha una storia più profonda, più vecchia, più antica, e una sedimentazione di saperi e di pratiche che rispetto al movimento contro l'aeroporto indubbiamente insomma, vede appunto le realtà no aeroporto come una componente minoritaria. All'inizio appunto le difficoltà sono state notevoli proprio perché a comporre questa componente no inceneritore ci sono le mamme no inceneritore di cui molte sono provenienti e vivono e abitano nella zona e lavorano probabilmente nella zona di Peretola, le piagge, Quaracchi, zona appunto soggetta ai sorvoli. La questione è abbastanza complessa perché chiaramente il riassetto e il progetto di un nuovo aeroporto prevede per poter realizzare una pista di 2400 metri, prendere l'attuale pista e girarla diciamo in parallelo all'autostrada, incastrandola a forza tra il casello di Firenze Nord e quella che più o meno è l'attuale Peretola. Quindi con questi 2400 metri avrebbero la possibilità di andare alla decuplicazione del numero dei voli e a tutte le previsioni faraoniche, elefantiache, stratosferiche che hanno fatto rispetto appunto al riassetto dell'aeroporto. Questa manovra, diciamo, di spostamento della pista è vista in qualche modo come positiva dalle popolazioni che almeno dagli anni Ottanta, data non precisamente collocata, però diciamo nel corso del decennio degli Ottanta, ha visto l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola fino ai numeri attuali, con una serie di passaggi, ora senza entrare troppo nel tecnico, perché si rischia di incartarci anche di fornire informazioni che poi tutto sommato servono il giusto, però è negli anni Ottanta che l'aeroporto di Peretola ha avuto la sua espansione, è proseguita negli anni 90 e quindi ha reso Peretola quella che è adesso. Un aeroporto indubbiamente fuori legge, che va avanti in deroga dall'inizio della sua storia, che ad oggi vede evase le prescrizioni della VIA del 2003 e che niente, su una zona, un abitato, quello di Peretola, le piagge, Brozzi, Quaracchi, l'ho già ripetuto più volte, è stato utilizzato come massa di manovra e è stato anche svilito con piccole regalie. Cioè, teniamo conto che Toscana Aeroporti o prima Aeroporto di Firenze finanziano le piccole situazioni di quartiere, danno i soldini per l'organizzazione della festa del carnevale nel borgo, danno i soldini per altri piccoli eventi durante l'anno di questo genere, ma ecco, dico svilito perché effettivamente, insomma, come abbiamo potuto commentare già l'anno scorso, con quattro cenci, due birre, poche centinaia o forse qualche migliaio di euro l'anno, in qualche modo si sono cercati di comprare il silenzio di queste comunità. Un silenzio che ovviamente va detto perché le mie parole non rischino di suonare offensive a chi le sente, non sono comunità che si sono vendute, sono comunità che in qualche modo hanno visto anche fallire le loro lotte, i loro tentativi di resistenza e di opposizione. A Peretola, Brozzi, Quaracchi, le piagge, ci sono stati comitati che noi abbiamo tentato di incontrare, di riattivare in questa diciamo nuova versione, nuova vita dei movimenti per la difesa del territorio, che però sono effettivamente spenti e non sembra che si riprenderanno, perlomeno nelle forme in cui li abbiamo visti e conosciuti, anche perché chiaramente i soggetti dentro le lotte poi anagraficamente invecchiano e quindi per tutta una serie di ragioni, come sarebbe giusto che ci fosse un ricambio anagrafico, magari non c'è più neanche l'energia o la voglia di misurarsi con i problemi del tempo che cambia. Comunque ci sono stati dei tentativi e delle esperienze di lotta e di resistenza che si sono purtroppo spente, arenate, spesso anche dentro gli uffici comunali, dentro i consigli di quartiere. Sicuramente in Firenze l'egemonia della sinistra storica, che è stata prima PC, poi PDS, poi DS, poi oggi PD, sicuramente ha anche non aiutato questi tentativi di auto-organizzazione degli abitanti, e si sono spersi in mille rivoli, in mille frustrazioni, senza produrre risultati sperati. Quindi un misto di senso di impotenza, frustrazione per lotte che non hanno avuto sbocco, ha creato una situazione, non voglio dire esplosiva, però insomma in qualche modo pesante, dove la prospettiva che il padrone di turno oggi con i suoi soldi gira la pista e ingiustizia per ingiustizia, 20 anni l'abbiamo subita noi, ora che la subisca qualcun altro. Quindi questo per sintetizzare un sentito che non è troppo diffuso, però comunque è un sentito che c'è. Stamattina appunto siamo andati a volantinare per questa iniziativa, era una mattinata di merda perché pioveva, quindi per strada c'era ben poca gente, comunque non è stato il primo volantinaggio che si è fatto, e chiaramente la gente, diciamo, suonando al campanello e presentandosi senza peli sulla lingua come comitato no aeroporto, la gente diciamo apre i portoni e lascia mettere i volantini nelle cassette piuttosto che nelle cassette delle pubblicità che stanno fuori, dove le cose si perdono. Invece vorremmo sempre arrivare all'obiettivo e quindi cerchiamo di portarle nelle cassette delle poste, ti aprono, il che vuol dire che il tema è sentito indubbiamente. Chiaramente può essere declinato in più salse. Ultimamente ci siamo allertati e ci stiamo misurando proprio sulla questione di Peretola, anche perché è nato, e credo sia sui nostri territori forse la prima volta che succede una cosa del genere, un comitato in qualche modo spontaneo e di auto-organizzazione popolare che sostiene le ragioni dei costruttori. Cioè c'è un comitato, si chiama Viva la Pista, che ha una sua pagina su Facebook, ha fatto dei volantini abbastanza rudimentali e li ha cominciati a distribuire a Peretola, e è mosso da persone che la cui prima e principale attività è guardare le nostre pagine Facebook o i nostri blog, per poi allertare gli altri dicendo: oddio, ci sono quelli in aeroporto che fanno questo, anche noi dobbiamo fare qualcos'altro, perché se no l'aeroporto resta così. Quindi diciamo, nel tempo, non perché ci sono questi de Viva la Pista, però anche perché ci sono questi, il discorso intorno all'aeroporto si è andato pian pianino affinando, e crediamo ad oggi di dover dire, senza peli sulla lingua e non è fare delle sparate, che l'aeroporto attuale di Peretola è incompatibile con la vita degli abitanti che ci stanno intorno, e l'aeroporto che vorrebbero, e noi diciamo mai ci sarà, però insomma quello progettato e che vorrebbero, non va a risolvere i problemi di nessuno, neanche quelli di Peretola, Brozzi, Le Piagge e Quaracchi, perché nel piano master plan o quello che era che Toscana Aeroporti è andata a presentare, l'attuale pista non viene cancellata, ma viene mantenuta. Viene mantenuta non casualmente, perché come sappiamo perfettamente dalle paginate dei giornali, soprattutto La Nazione, che non mancano mai di stigmatizzare l'aeroporto attuale quando tira vento, la situazione dei venti in quella piana è tale per cui, per un fenomeno, credo si chiami di wind sharing, per usare questo anglismo che insomma ogni tanto si sentono queste parole tecniche nelle discussioni, è tale per cui la situazione a volte si decolla verso Firenze, a volte verso Prato, altre volte comoderà a mantenere la direzione perpendicolare all'autostrada, che è quella che usano adesso, che quindi sorvolerà ancora Le Piagge, Peretola, Quaracchi e Brozzi, altre volte puntando il Monte Morello. Quindi la situazione che il nuovo aeroporto andrebbe a creare è una situazione che spalma il problema dei sorvoli su tutta l'area metropolitana, lo porta addirittura sopra Firenze, sul cielo di Firenze, che per quanto ci riguarda non è uno scandalo più grande che portarlo sul cielo di Peretola, di Quaracchi, di Castello o di Prato o di Capalle, perché insomma sono sempre abitati, però indubbiamente aggiunge anche un po' di un elemento di contraddittorietà all'interno delle loro stesse capacità pianificatorie, perché da una parte si rompe le scatole a ogni piesso spinto sull'inestimabile valore della città di Firenze, dall'altra, se noi guardiamo le simulazioni di atterraggio che sono state fatte dal sito pianasana.org, che si può trovare insomma su internet, curiosità, l'abbiamo linkato anche dalle pagine dell'Assemblea per la Piana, insomma abbiamo cercato di dargli diffusione perché merita, insomma un 20% dei voli è stimato che dovrà girare anche dalla parte di Firenze. E quindi niente, insomma proprio stamattina siamo andati per intercettare la gente, cercare di screditare coloro che in questo momento stanno dicendo viva la pista, ecco, è un messaggio, cioè il nome, diciamo, del gruppo non lascia fraintendimenti, si chiama Viva la Pista, e fa un po' ridere o piangere, insomma, accusano noi No Aeroporto di semplicemente voler lasciare le cose come stanno, ci accusano di connivenze con i settori dell'immobiliarismo della Piana, mettendo in evidenza una contraddizione che probabilmente in qualche modo c'è in effetti, che è quella che vede coloro che vorrebbero costruire case e urbanizzare quell'area della Piana ad uno scopo in qualche modo scontrarsi, anche se non direttamente, con chi ci vorrebbe fare un aeroporto, insomma, o ci si fanno le case o ci si fa un aeroporto, quindi questa contraddizione magari c'è, ma credo che pensare che noi come movimenti e come abitanti auto-organizzati dal basso prendiamo soldi o insomma vabbè so illazioni belle e buone e niente, quindi la situazione attuale è questa, vorremmo anzi da questa prima assemblea stiamo lavorando per approntare in qualche modo una campagna che vada proprio a partire dal problema del rumore, che indubbiamente è l'aspetto più evidente, più sentito delle zone sorvolate, mettere in qualche modo in discussione l'attuale progetto di aeroporto. Quindi si sta pensando di fare delle campagne di automonitoraggio e automisurazione del rumore, con la speranza poi che quello che per esempio è stato fatto a Pisa sulle abitazioni sorvolate, cioè da parte dell'ARPAT, che hanno fatto un progetto di misurazione dei valori del rumore e quindi anche delle conseguenze in termini di stress, problemi legati al sonno, problemi di concentrazione per chi è a studiare o chi è nelle scuole, perché anche le scuole ovviamente ci sono tra le cose sorvolate, come è stato fatto a Pisa venga fatto a Firenze, probabilmente, anzi togliamo il probabilmente, a Firenze non lo vorranno fare proprio perché discutere di questo va a pestare i piedi agli interessi di chi abbiamo nominato all'inizio, che sono Toscana Aeroporti, sono Renzi e Carrai fortissimamente, sono questo Eduardo Urnechian, magnate argentino, proprietario di Corporazione America. Abbiamo ascoltato abbastanza diffusamente con articolazione, quella è una fotografia rispetto a coloro che vogliono costruire e hanno interesse a costruire queste grandi opere inutili e nocive, e nello stesso momento le ragioni della opposizione a queste opere, l'inceneritore e all'ampliamento della pista aeroportuale di Peretola. Finiamo qui per questa puntata, però vi diamo appuntamento fino a una delle prossime vicinissime puntate per parlare appunto e farci illustrare quelle saranno le iniziative concrete volte a contrastare questa inceneritore, la costruzione di inceneritore dell'aeroporto. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti.